Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, cominciamo oggi a segnalare qualche libro che può essere utile per regalare o per regalarci. È innanzitutto un libro che non può mancare nella biblioteca di chi è appassionato di musica, in particolare di Mozart. È infatti l'epistolario della famiglia Mozart che per la prima volta viene tradotto integralmente nella nostra lingua. L'impresa si intitola Tutte le lettere di Mozart, l'epistolario completo della famiglia Mozart, sono state curate da Marco Murara, pubblicate in 3 volumi da Zecchini, 1892 pagine in tutto, 89 euro. Mozart, come sapete, fu non soltanto un grandissimo musicista, ma anche un grande viaggiatore per ragioni di lavoro e un poligrafo eccezionale. Si scrivevano lettere molto frequentemente e queste di Mozart sono particolarmente ricche e vivaci e ci permettono di conoscere l'ambiente nel quale Mozart visse e lavorò, e lo testimonia anche il ricchissimo indice dei nomi che completa quest'opera, ma soprattutto lui stesso, di capire come era fatto lo stesso Mozart, che per esempio in queste lettere usa spesso un linguaggio assai poco solenne e consono al personaggio che poi è stato mitizzato. Nell'epistolario, che ripeto riguarda tutta la famiglia Mozart, troviamo anche il padre, il famoso Leopoldo, che ebbe un ruolo decisivo sulla vita del figlio, di cui aveva colto fin dai primi mesi di vita, potremmo dire, le grandi capacità musicali, ma col quale ebbe anche dei rapporti difficili. Sentite per esempio queste righe tratte da una lettera proprio del 4 dicembre del 1777, nella quale lettera il padre sgrida il figlio, il quale gli aveva annunciato dei confusi progetti, oggi diremmo professionali, che il padre certo non approva. Mia cara moglie e mio caro figlio, non ho nulla in contrario al fatto che dobbiate aspettare quello di cui mi scrivete, e non ho più nulla da dire riguardo a tutto ciò che è successo nel corso del vostro viaggio contro la mia opinione e contro il nostro interesse, anzi con nostro evidente danno, dal momento che è passato e non può più essere cambiato. Ma che tu, figlio mio, mi scriva che tutte le speculazioni sono superflue e non servono a nulla e che non sappiamo cosa accadrà, significa in effetti pensare alla giornata, senza riflettere e certamente scrivere in modo sconsiderato. Nessun uomo ragionevole, per non dire cristiano, può negare che tutto andrà e deve andare secondo la volontà di Dio. Ma questo comporta forse che dobbiamo comportarci ciecamente? Vivere senza preoccuparci? Non prendere alcun provvedimento e aspettare soltanto che le cose ci cadano dal cielo? Dio stesso e il mondo della ragione non pretendono forse da noi che riflettiamo sulle conseguenze e sul fine di tutte le nostre azioni, secondo le nostre capacità di ragionamento umane? Da quest'opera, come scrive Sandro Cappelletto nella presentazione, emerge dunque un Mozart che, se non è stato un poeta, certo è stato un grande scrittore. Il suo lascito letterario, scrive Cappelletto, sono le lettere. Uno scrittore figlio del suo tempo, aggiunge, lontano dalla prosa romantica, poco desideroso di portare in primo piano la soggettività, poco sensibile al fascino del paesaggio, della natura, invece attento nell'annotare episodi, persone, situazioni, fermo nell'esprimere la forza delle proprie convenzioni musicali e decisioni di vita. E su questo sentiamo il curatore dell'opera, Marco Murara. Buongiorno a Marco Murara. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, Marco Murara, che cosa si può scoprire in questo cofanetto con tutte le lettere della famiglia Mozart? Beh, diciamo che per la prima volta in Italia è disponibile la versione italiana, appunto, di tutto l'epistolario della famiglia Mozart, quindi dal 1755, ovvero se un anno prima della nascita di Mozart, con le prime lettere del padre, fino al 1791, che è l'anno della morte, appunto, del compositore. E proprio l'integralità dell'epistolario ci permette di avvicinarci alla figura di Mozart nella sua complessità. Diciamo che fino ad oggi erano disponibili degli epistolari parziali che mettevano in luce solo alcuni aspetti della figura molto complessa di Mozart. Ad esempio, i primi epistolari cercavano di evidenziare la figura tradizionale di un compositore divino, fanciullo, che cala dall'alto e fa una musica sublime, e si sublime anche nella sua persona. E per converso, negli ultimi anni si sono diffuse anche quelle raccolte parziali delle lettere alla cugina, sono poche lettere, dalle quali emerge invece una figura di una persona scurrile che si lascia andare a sconcezze e usa un linguaggio tutt'altro che forbito. Ecco, questi direi che sono tasselli che vanno a comporre una figura più complessa, che si può cogliere appunto grazie all'epistolario. Come mai ancora in Italia, dopo più di 250 anni, non si era pubblicato l'integrale delle lettere di Mozart? Questa è una bella domanda, probabilmente perché la mole del lavoro ha sempre spaventato, sempre distolto persone dall'avvicinarsi. Diciamo che io l'ho fatto per pura passione, io sono un grande appassionato della musica di Mozart e ho sempre avuto il desiderio di avvicinarmi a questa figura, a questo compositore e conoscere da vicino i documenti che sono usciti dalla sua penna. Grazie alla passione si scalano le montagne più impervie e quindi anch'io sono riuscito ad arrivare in fondo a questa mole di lettere, sono 826 lettere e nella traduzione italiana con le note sono più di 2000 pagine. Ecco, diciamo che per me quando ho cominciato questo viaggio nelle lettere non era così importante l'arrivo alla meta, non è che mi sono prefisso una scadenza e adesso devo arrivare alla pubblicazione. Io ho cominciato il viaggio e per me è stato più importante il viaggio della meta. E quanto è durato questo viaggio? Questo viaggio è durato quasi 3 anni. Perché lei non è uno storico, un musicologo di professione, mi sembra. No, di professione faccio il notaio, sono storico per passione da sempre. E quindi ho una conoscenza della storia, in particolare del Settecento, perché è il secolo che più attrae il mio interesse, e sono appassionato di musica, quindi le due passioni si sono unite in questa traduzione dell'epistolario, perché l'epistolario naturalmente è una finestra aperta sul Settecento, sulla tutta la seconda metà del Settecento europeo, entra più o meno direttamente attraverso l'epistolario e quindi è ovviamente un'occasione anche per approfondire non solo la vita di Mozart ma anche la storia d'Europa dell'epoca. E da queste lettere emerge la figura dominante del padre che non ebbe un rapporto facile con il figlio, con Wolfgang. Certamente, certamente, direi che anzi Leopold non è un comprimario ma è un coprotagonista dell'epistolario. Direi senza tema di esagerare che più della metà delle lettere che compongono l'epistolario mozartiano è uscito dalla penna di Leopold Mozart. E in effetti l'epistolario ci consente di avvicinarci anche alla figura del padre. Figura del padre che diciamo al momento di particolare importanza anche nell'epistolario negli anni fra il 77 e il 78, quando Mozart per la prima volta, e lui ha ormai 22 anni, per la prima volta si stacca dal padre e fa un viaggio insieme alla madre, ma quindi senza la figura del padre. E infatti una lettera di queste l'abbiamo appena ricordata. Infatti queste sono delle lettere molto importanti perché il padre è costretto a rimanere a Salisburgo per motivi di servizio e vede il figlio che sfugge al suo controllo e lui non può fare altro che dare voce anche alla sua frustrazione nel vedere tutti i suoi consigli, tutte le sue prescrizioni che cadono anche un po' nel vuoto perché il figlio è un po' indisciplinato e quindi non segue le sue istruzioni. Grazie al notaio mozartologo Marco Murara che ci ha regalato questo epistolario di Mozart completo. Grazie. Buona domenica. Buona domenica a voi. Le note che avete ascoltato sono tratte dal concerto per pianoforte in re minore del 1785, questo era il primo movimento, un movimento considerato uno dei brani più agitati, oscuri e combattuti del XVIII secolo, almeno così viene definito nel libro Perché la musica è classica, significati, valore, futuro di Lawrence Kramer, pubblicato da EDT, 256 pagine, 14 euro ed è tradotto da Davide Fassio. L'autore è un musicologo, docente universitario, collaboratore a riviste musicali che ci dà in questo libro un prezioso strumento per accostarci alla musica. Il libro ci spiega e vuole identificare alcune qualità della musica classica che sono capaci di arricchire la nostra vita usando liberamente il linguaggio per mostrarle in azione. Per questo, aggiunge, non vuole fare paternali, prepotenze, non ci sono pretese di istruire dall'alto, solo il diario di un'esperienza vissuta e questo è molto importante perché spesso appunto questo genere di libri si ha la tentazione di salire in cattedra e dare delle lezioni. No, qui non si vuole dare la lezione ma semplicemente si vuole invitare il lettore a abbandonarsi appunto al piacere della musica classica ed è interessante nel libro il paragone che l'autore fa tra la musica classica e il museo. Spesso vengono considerati appunto sullo stesso piano come espressione di culture passate e morte, ma spiega l'autore, proprio il museo sta dimostrando in questi ultimi anni di essere viceversa un grande soggetto culturale, perché la gente nel museo ormai va per divertirsi, per conoscere delle cose nuove e non ha più il rapporto puramente passivo che si aveva fino a pochi anni fa. E lo stesso dovrebbe succedere con la musica. E quindi l'autore spiega per esempio il rapporto tra la musica e le emozioni e scrive che quando affermiamo che la musica esprime emozioni Vogliamo dire che la musica possiede due specifiche facoltà emotive: quella di rendere tangibile l'emozione dando una forma sensibile e riproducibile a un qualcosa di transitorio e interiore, e l'altra che la musica classica separa l'emozione dalle circostanze e dalle motivazioni specifiche, conferendole una indipendenza che è una forma di piacere in sé, anche quando si tratta, aggiunge, di emozioni lugubri o inquietanti. Ultimi arrivi. Restiamo in campo musicale, ma cambiamo completamente genere, con alcuni libri che possono essere delle strenne o degli acquisti per chi è appassionato di musica. Allora, cominciamo con Terry Barrons, che ha pubblicato Beatles, è pubblicato da Mondadori, 64 pagine, 29 euro. E questa è una cronologia molto illustrata del fenomeno dei Beatles, che gli appassionati apprezzeranno in modo particolare perché il libro è arricchito da facsimili di documenti originali, per esempio copie di biglietti dei loro concerti, manifestini, autografi, riproduzione di cartoline illustrate, e ci sono anche le copie di due poster che illustravano appunto due concerti dei Beatles. E nel testo poi troviamo anche una descrizione analitica di ciascuno dei long playing che segnano la carriera dei Beatles. L'altro libro dedicato anche questo alla musica contemporanea è di Vincenzo Incenzo e si chiama La canzone in cui viviamo, 101 viaggi nella scrittura cantata italiana, pubblicato da Non Reply, 298 pagine, 12 euro. Qui si parte dai grandi classici della canzone italiana del Novecento, con una sorta di premessa rappresentata dal Va pensiero di Verdi e da una canzone considerata simbolica per il filone politico, cioè Bella Ciao. E poi, decennio per decennio, troviamo le 100 canzoni italiane che hanno fatto la nostra vita, con un appello finale dell'autore a studiare di più e meglio la musica nelle scuole. Uno dei protagonisti di questa storia della canzone italiana è certamente Zucchero Fornaciari, che nel libro di Incenzo troviamo citato per la canzone Miserere. E di Zucchero esce appunto l'autobiografia Il suono della domenica, pubblicata da Mondadori, 296 pagine, 19 euro. Questa è una storia appassionante nella quale Zucchero si mette a nudo spiegando tante scelte artistiche e anche qualche titolo magari apparentemente enigmatico, per esempio Solo una sana e consapevole libidine. Vengono illustrati tanti incontri, vengono raccontate le parabole, viene raccontata la parabola di un successo che affonda le sue radici in una provincia allora povera dell'Italia, e non vengono nascoste neanche le difficoltà che Zucchero ha dovuto attraversare, per esempio i periodi di depressione. E anche questo libro si chiude con un appello finale: difendere la cultura e la creatività. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo adesso a dei libri che prendono in considerazione l'evoluzione del pensiero politico, e partiamo da una figura che certo non va mai in soffitta, cioè Carlo Marx, che ritorna in una biografia di Nicolao Merker, un professore dell'Università di Roma La Sapienza, studioso in particolare del pensiero socialista. Il libro si intitola Karl Marx, vita e opere, pubblicato appunto dalla Terza, 262 pagine, 10 euro. Marx, dice l'autore, è un pensatore eminentemente europeo, le cui riflessioni si basano sul patrimonio filosofico-culturale, come scrive lo stesso autore, accumulatosi nella modernità europea dal Cinquecento in poi con un'impennata nel Settecento illuminista. E qui nel libro troviamo la storia della sua famiglia, del pensiero, del successo e dell'insuccesso di Marx, delle interpretazioni e naturalmente un bilancio finale. Marx è ancora attuale? In qualche misura per l'autore sì, perché Merker individua la parte forse più vitale del pensiero di Marx nella sua capacità di identificare le contraddizioni della società capitalista, in particolare quelle relative ai diritti, e scrive allora nelle ultime righe del libro che è proprio nella battaglia per i diritti che l'insieme delle forme cosiddette ideologiche diventa politicamente efficace. La trasformazione del mondo, quella che Marx stesso voleva raggiungere, e oggi in prima istanza la battaglia per i diritti individuali, sociali e di cittadinanza, da intendere come indivisibile trinomio. Marx non aveva teorizzato questo tipo di battaglia, ma ne aveva magistralmente descritto l'area di applicazione nell'epoca sua, il tempo dell'industrialismo monocentrico, quello del solo occidente, e poi, aggiunge l'autore, naturalmente questa frontiera andrebbe oggi applicata nel sistema globale di convivenza. Uno tra i pensatori più innovativi del XIX secolo, così viene definito Marx nell'altro libro che adesso vi propongo, di Robert Service, Compagni, storia globale del comunismo nel XX secolo, pubblicato ancora dalla Terza, 690 pagine, 14 euro, tradotto da David Scaffei. L'autore è uno storico britannico, in particolare studia la Russia e qui ha studiato le evoluzioni del comunismo contemporaneo. Evoluzioni che, come osserva lo stesso autore, avrebbero senz'altro destato la sorpresa dei padri del marxismo contemporaneo, Marx ed Engels, e avrebbero lasciato perplesso Lenin, che poté osservarli con i propri occhi al loro primo apparire. Molte sono state le deformazioni del sistema comunista e Service le riassume rapidamente nella sua introduzione. I regimi comunisti hanno avuto molto in comune, osserva, hanno eliminato, tarpato le ali ai partiti politici rivali, hanno attaccato la religione, la cultura e la società civile, calpestato ogni rivendicazione nazionale, hanno abolito l'autonomia della magistratura e della stampa, hanno istituito reti di informatori e sistemi di polizia segreta, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutti questi difetti hanno dato vita a un vero e proprio sistema comunista, che quindi va studiato nella sua complessità, e questo fa il libro. Questo sistema viene appunto analizzato a fondo, sono molto estesi e interessanti anche riferimenti alla tradizione italiana, al comunismo italiano. Per esempio si parla a lungo di Togliatti e viene colto molto bene l'imbarazzo che l'allora segretario del Partito Comunista ebbe quando Khrushchev denunciò i crimini di Stalin che misero in subbuglio appunto il mondo comunista, e osserva Service che appunto questo malessere coinvolse perfino Togliatti, che era stato fedele all'Unione Sovietica fin dagli anni 20. Diversamente da Gramsci, Togliatti non rilevava niente di fondamentalmente errato nel marxismo sovietico, ma poiché le aberrazioni di Stalin lo avrebbero coinvolto direttamente, perché Togliatti era stato collaboratore di Stalin, in quel momento il segretario del Partito Comunista si trovò in grande imbarazzo. E allora, scrive Service, per difendere il proprio nome, Togliatti riuscì a distogliere l'attenzione dalla propria biografia per concentrarsi invece, come scrive, sulla scarsa consistenza ideologica delle argomentazioni di Khrushchev, e dichiarò che il discorso del leader sovietico non riusciva a fornire una prospettiva genuinamente marxista, e dando la colpa, secondo Togliatti, alle degenerazioni burocratiche per salvaguardare in qualche misura il modello e la figura di Stalin. E cambiamo campo ideologico per venire in uno che è a me più congeniale, quello della cultura liberale. Vi propongo la figura di un grande pensatore del Novecento, uno dei maggiori studiosi del Novecento, uno dei maggiori esponenti del pensiero liberale del scorso secolo, e cioè Friedrich von Hayek, di cui viene pubblicata l'autobiografia, così intitolata, da Rubbettino, 250 pagine, 16 euro. Questa biografia è scritta sotto forma di intervista, raccogliendo vari documenti e varie occasioni nelle quali il grande filosofo ed economista si pronunciò. E ne emerge un quadro organico e utile per ricostruire il pensiero di questo grande protagonista, appunto, del pensiero del Novecento, messo un po' in ombra, ai margini, negli anni 60 e poi riscoperto quando tramontò il keynesismo e lui stesso, Hayek, venne insignito con il premio Nobel per l'economia nel 1974. Parte gli approfondimenti sul pensiero, l'autobiografia ci offre anche qualche squarcio importante sulla vita di Hayek. Il pensatore era un austriaco, esponente della vitalissima cultura della Vienna fin de siècle, e qui ricorda per esempio la sua esperienza di ufficiale nella Grande Guerra, quando nella ritirata del fiume Piave, scrive Hayek, eravamo i primi inseguiti dagli italiani. Ma poi naturalmente troviamo una sorta di guida alle sue idee e la sua trasformazione in convinto assertore della libertà anche in campo economico. Considerato un po' come appunto l'anti-Keynes, in realtà Hayek con Keynes ebbe un ottimo rapporto, come spiega lui stesso in queste righe. Eravamo diventati molto amici, perché condividevamo tantissimi interessi, storici e al di fuori dell'economia. Generalmente, anzi, quando ci incontravamo, smettevamo di parlare di economia. Durante la guerra ero solito incontrarlo piuttosto di frequente, anche se lui naturalmente lavorava a Londra. Però nei fine settimana normalmente tornava a Cambridge, dove io mi trovavo al King's College. Quindi, sul piano personale, divenimmo grandi amici anche con sua moglie, Lidia Lopokova. Una sera eravamo seduti a leggere i giornali nella Senior Room. Parlavamo di quello che stavano facendo Robinson e Kahn in materia di politica monetaria. Egli esclamò: «Sono dei folli. Le mie idee erano fondamentali negli anni 30. Allora non c'era da combattere l'inflazione». Ma puoi fidarti, Hayek, le mie idee oggi sono datate. Cambierò l'opinione pubblica così, e fece schioccare le dita. Dopo 6 settimane morì. Se fosse vissuto, penso che sarebbe riuscito a fare quello che aveva detto. Forse sì. Era un grande manipolatore dell'opinione pubblica, non è vero? Sì. Quella era la sua grande presunzione. Si definiva sempre una Cassandra. Era convinto di poter dirigere l'opinione pubblica come se dovesse suonare uno strumento musicale. L'influenza che egli aveva esercitato sui trattati di pace gli aveva dato alla testa. Naturalmente era ben consapevole delle sue abilità oratorie che, mi dispiace doverlo dire, non si evincono certo dalla General Theory. Comunque, sapeva scrivere elegantemente ed era un grande oratore. Ho sempre sostenuto, e altri non sembrano aver citato abbastanza questo fatto, che la sua voce riusciva davvero a incantare. Aveva un suono molto musicale. Posso capire che egli riuscisse a conquistare le persone. Bastava che lo ascoltassero le sue parole. Interessante nel libro anche la postfazione di Lorenzo Infantino, che approfondisce i rapporti di Hayek con la cultura italiana. Sono tanti i pensatori del nostro paese che con Hayek ebbero contatti e che a lui si ispirarono, a partire naturalmente dal più celebre di tutti, cioè Luigi Einaudi. In particolare, proprio Einaudi, scrive Infantino, ha tenuto sempre in grande considerazione la scuola austriaca di economia, di cui Hayek era uno dei grandi esponenti. Vedeva in essa una straordinaria fonte di impegno morale e una fervida fucina di strumenti concettuali. E parlava di questi giovani economisti, per lui, i cui concetti hanno una rara potenza chiarificatrice, queste sono parole di Einaudi citate da Infantino, e danno speranza di diventare una delle maggiori forze spirituali del mondo. E a questo punto... Il confettino. Vi propongo oggi un libro suggestivo sul rapporto tra mamma e figlio, rivolto ai bambini naturalmente. Il libro si intitola Cuore di mamma ed è di Isabelle Mignos Martiens, illustrato da Bernardo Carvaio, tradotto da Francesca Di Giuseppe, pubblicato dalla Nuova Frontiera, 14 euro. E con questo ringrazio Stefania Tagliaferri e Luca Cremonesi in redazione, in regia Pietro Lacorte. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.